Benvenuti in Audible. Buon ascolto. Mondadori presenta 10 cose che ho imparato di Piero Angela. Legge Massimo Polidoro. Prefazione di Alberto Angela. È stato per me emozionante leggere le prime righe di questo volume, perché per la prima volta dopo la scomparsa di mio padre ho di nuovo risentito chiarissima la sua voce e il calore dei suoi ragionamenti, che prendendoti per mano ti portavano verso scoperte e conclusioni che ignoravi, sempre sorprendenti e condivisibili. Esattamente come una guida ti conduce con sicurezza attraverso una foresta buia per emergere in prati assolati. Leggere le sue parole è stato come rincontrarlo dopo settimane di assenza, di vuoto e di silenzio. E immagino che lo stesso sarà per voi. Avrete davvero la sensazione che sia nuovamente al vostro fianco mentre vi spiega argomenti complessi. Credo di interpretare il pensiero di tutti dicendo che sentiamo la mancanza del suo pensiero e della sua innata capacità di illuminare l'ignoto con una razionalità elegante ma ferma. Aggiungo che manca anche la sicurezza della sua saggezza, una saggezza che non ho mai visto altrove e che in questo presente instabile e incerto, con cupe nuvole sul futuro, da quello climatico a quello geopolitico, sarebbe più che mai importante e rassicurante. I capitoli spaziano dalla politica all'ambiente, al cervello, e dimostrano la sorprendente capacità di mio padre di affrontare argomenti diversissimi con una lucidità, una professionalità, una chiarezza, una correttezza d'analisi e un'imparzialità di pensiero, grazie alle quali vi porta a conclusioni e soluzioni mai di parte, ma condivise, di buon senso e soprattutto stimolanti per continuare con nuovi ragionamenti. Ognuno dei capitoli fa parte delle costellazioni di argomenti che ho avuto l'incredibile fortuna di esplorare ascoltandolo per decenni, e vi posso dire che leggendoli è come se avesse messo una sedia anche per voi accanto a me in questi anni. Che sia stato mentre scrivevamo libri a quattro mani, unendo le nostre esperienze e conoscenze, oppure a cena, al telefono, o in assolati pomeriggi di fronte al mare, la sua mente donava un sapere forte e nutriente, aprendo la nostra a universi per noi fino ad allora lontani e irraggiungibili, grazie al suo modo scientifico e stimolante di vedere ogni cosa. Era ed è tuttora con i suoi programmi e i suoi libri una sorta di spinta che dava al nostro pensiero, un po' come si fa con l'altalena, e che io trovo presente in tutte le sue frasi di questo libro. Una spinta potente e sorridente che gli ho sempre riconosciuto. Una volta gli ho chiesto: «Papà, ma come fai a sapere ogni volta la soluzione giusta per qualsiasi questione?» E lui mi ha risposto: «Leggendo e documentandomi e poi pensando molto». Ed era proprio questa capacità, razionale e limpida, di mettere assieme cose poco note, che gli consentiva di proporre spiegazioni, lui non le imponeva mai, ai problemi, con un'onestà che vi lasciava meravigliati. Pur lavorando nello stesso campo, so che non avrò mai la sua saggezza. Da tanti anni, standogli accanto, mi ero reso conto di avere come padre e come collega di lavoro una persona di una genialità eccezionale, come ne nascono solo raramente. Mi direte che queste sono le parole di un figlio? Sì, forse, ed è naturale, ma è vero solo in piccolissima parte. Lascio ai capitoli che leggerete il compito di convincervi di ciò che dico. Troverete lo spirito del suo pensiero, del suo modo semplice nelle parole e negli esempi, ma incredibilmente profondo nel ragionamento. La cosa che mi ha gradevolmente colpito di questo suo ultimo volume, elaborato quando già sapeva quale fosse il suo destino, è che ha voluto togliersi il microfono, smettere di fare il giornalista e il divulgatore davanti a una telecamera per raccontare quanto lui stesso ha imparato nei vari campi. Si è in un certo senso seduto accanto ai suoi telespettatori, ai suoi lettori, ai suoi amici, a voi, per raccontare ciò che ha capito nell'arco della sua esistenza. Questo quindi non è un libro come tutti gli altri che ha scritto, è un diario intimo del suo sapere, l'ultimo che ha voluto regalarci prima di andarsene. Il volume che leggerete è arrivato fino a voi grazie al paziente lavoro di assistenza alla stesura di mia sorella Christine negli ultimi mesi di vita di papà. E grazie anche a quello preziosissimo di Lorenzo Pinna, suo storico e fedele collaboratore. Era accanto a mio padre fin dagli esordi di Quark nel lontano 1981, che ha seguito l'elaborazione finale del testo. Ora tocca a voi. Nelle pagine che seguiranno ci sono i suggerimenti di mio padre per il futuro, raccolti in una vita. Facciamone tesoro per i tempi difficili che verranno, come lui stesso ci ha consigliato. Buona lettura. Introduzione. Mi chiedo spesso come mai un paese come l'Italia, pieno di intelligenze e di creatività, con una storia straordinaria e unica, che ha marcato profondamente per secoli il cammino della civiltà, oggi sia così in difficoltà e abbia perso le sue luci. Possono esservi varie risposte, ma personalmente credo che vi sia soprattutto un gravissimo ritardo culturale a entrare nella modernità, cioè un deficit nella capacità di comprendere e di investire in quelli che sono oggi i veri acceleratori dello sviluppo: educazione, conoscenza, competenza, flessibilità, innovazione, capacità progettuale, eccetera. Tutte cose importanti anche in passato, naturalmente, ma che oggi sono deflagrate attraverso il moltiplicarsi delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. E questa è la miscela che ha fatto esplodere in un tempo brevissimo il mondo moderno e che continua a trasformarlo con rapidità crescente. Non comprendere queste connessioni e trarne le conseguenze vuol dire tagliare le gambe allo sviluppo del nostro paese. Un paese industriale quasi privo di materie prime e soprattutto di fonti energetiche, che deve basare la sua capacità di produrre ricchezza sull'efficienza nel trasformare e nell'innovare. Grazie a politiche e a stimoli che aiutino, anche attraverso l'educazione, lo sviluppo di una nuova mentalità. Questo libro raccoglie alcune cose che ho imparato in tanti anni di professione, di incontri, di esperienze, di libri letti e scritti, di speranze e delusioni. Mezzo secolo passato a raccontare i problemi dello sviluppo. Una specie di raccolta organizzata di concetti per cercare di capire cosa è successo e cosa si può fare. La parte dedicata alla scuola conterrà anche una proposta concreta, realizzabile subito. Si dice spesso che la cultura è ciò che rimane dopo che si è dimenticato tutto ciò che si è imparato. Ed effettivamente quello che conta è disporre di un quadro d'insieme degli eventi, saper porre e porsi le domande giuste, inquadrare i problemi e trovare soluzioni, saper comunicare, individuare connessioni e collegamenti, riconoscere contraddizioni e incompatibilità, avere imparato a imparare. Ma se in questo straordinario montaggio di idee e di conoscenze vengono a mancare i pezzi fondamentali messi oggi a disposizione dalla scienza e dalla tecnologia, quello che esce non rappresenta più la complessità del sistema. La nostra tradizione umanistica, così ricca e preziosa, non può più illuminare e guidare il nostro tempo se non si integra con una nuova visione della realtà. Perché tutto sta cambiando, dall'economia all'ambiente, dall'energia alla scuola, dall'informazione alla demografia, all'idea stessa della politica intesa come motore dello sviluppo. Ed è proprio da qui che cominceremo, perché in realtà la politica, contrariamente a quanto solitamente si pensa, non ha mai prodotto ricchezza. Capitolo 1. La politica non produce ricchezza. Penso che sia utile partire da un dato storico rilevante, e cioè che per secoli e millenni, e con qualsiasi regime, l'umanità è rimasta povera, analfabeta, con una vita breve e grama, quasi senza cure e con poco cibo. La politica, intesa come le élite al potere e l'insieme delle loro decisioni, in realtà, non produce ricchezza, ma distribuisce quella poca o molta che un paese riesce a creare con il suo lavoro, con le tecniche di cui dispone, con le conoscenze a mano acquisite. Avremo occasione di vedere, infatti, come pian piano tutto sia cambiato solo ed esclusivamente grazie all'apparizione, dapprima molto lenta, poi sempre più veloce, di tecniche e di conoscenze, che finalmente hanno permesso, a chi le ha sapute usare, di migliorare la propria vita e quella del proprio paese. Ed è grazie alla possibilità di disporre di questi strumenti che la politica può svolgere il suo importante ruolo, quello di gestire la crescita. Cosa vuol dire? Vuol dire utilizzare al meglio le risorse disponibili e quindi creare una rete dove tutto converge per fare sistema. Basta guardare i dati per rendersi conto del ruolo che svolgono oggi nella società avanzata scienza, tecnologia e educazione, tanto per citare tre dei grandi motori di crescita. hanno completamente rivoluzionato l'industria, l'agricoltura, i servizi, hanno moltiplicato il reddito, dimezzato le ore di lavoro, raddoppiato la speranza di vita, fatto esplodere la popolazione, quasi azzerato la mortalità infantile, portato nelle scuole e nelle università masse di giovani prima analfabeti, liberato la donna, ma anche l'uomo, da una condizione di sudditanza, creato le premesse per la nascita della democrazia, tutelato gli anziani con assistenza e pensioni prima inesistenti, creato enormi quantità di energia, inventato nuove forme di comunicazione a distanza, radio, TV, web, rivelato gran parte delle leggi di natura, esplorato l'universo, l'origine della vita, il cervello umano, sviluppato macchine intelligenti per calcolare, simulare, programmare, eccetera. Ebbene, questo cambiamento profondo, avvenuto nell'arco di sole poche generazioni, in che misura è entrato nella nostra cultura e nella nostra capacità di integrarlo nelle scelte politiche? Nel corso del libro riprenderemo uno per uno questi punti e vedremo che la nostra è rimasta soprattutto una cultura umanistica, letteraria, storica, giuridica, artistica, filosofica, tipica di una società in cui i cambiamenti avvenivano lentamente e dove non esisteva quasi competizione con economie concorrenti. Ciò che colpisce di più guardando le rivoluzioni avvenute negli ultimi 150 anni è proprio la mancanza nel nostro paese di una evoluzione culturale. È come se niente fosse successo. La scienza ha rivoluzionato le conoscenze, la tecnologia ha cambiato profondamente la società, ma tutto ciò non è entrato nel grande tempio della cultura. Basta leggere le pagine culturali dei quotidiani per rendersene conto. Scienza e tecnologia vengono generalmente viste come materie tecniche, certamente importanti per tutti i vantaggi che ci hanno garantito, farmaci, lavatrici, aerei, corrente elettrica, eccetera, o per ciò che ci hanno fatto scoprire grazie all'astronomia, alla fisica, alla biologia, eccetera. Ma quando si parla di cultura, di formazione intellettuale o anche dei grandi interrogativi, è il pensiero classico a primeggiare. In realtà, come sappiamo, è proprio la scienza che sta cominciando oggi a rispondere davvero alle domande che i filosofi si sono posti da secoli, in particolare alle antiche domande dei filosofi naturali, che cercavano di capire i grandi misteri dell'universo, della vita, dell'uomo. La scienza ci permette di avere oggi un quadro delle conoscenze straordinario, inimmaginabile prima, mentre la tecnologia continua nella sua rivoluzione che ha cambiato la storia dell'umanità. Ignorare questo nuovo mondo e le sue implicazioni è un'automutilazione culturale incomprensibile per un intellettuale. Soprattutto è un grave danno economico per il paese, perché è proprio dall'efficienza del sistema nel suo insieme che provengono le risorse per rispondere alle domande crescenti della società. È da questa maggiore o minore efficienza, che si potrebbe riassumere con il termine produttività in ogni campo, che scaturiscono i tanti rivoli per pagare sanità, istruzione, difesa, assistenza pubblica, amministrazioni, ricerca, trasporti, ambiente, industria, energia, casa, eccetera, con dosaggi variabili a seconda dell'orientamento determinato dalle elezioni. Ma di tutto il processo produttivo solitamente interessa soltanto la coda finale, cioè la distribuzione della ricchezza. Chi avrà da cosa e quanto e quando? La politica, specialmente oggi in Italia, viene identificata soprattutto con un bancomat, dove ognuno vuole ottenere di più, subito, dimenticando completamente che la ricchezza non si crea nei talk show, con gli scontri, le polemiche, oppure nei dibattiti culturali, nell'informazione, nelle campagne elettorali. Proprio le campagne elettorali, dove fare delle grandi promesse viene considerata una strategia vincente per ottenere più voti, sono un esempio illuminante. Le promesse possono andare da una drastica riduzione delle tasse all'abbassamento dell'età pensionabile, dalla cancellazione delle pendenze con il fisco, i famosi condoni, a bonus per varie attività e iniziative. A volte viene spiegato che queste misure si ripagherebbero da sole, generando una tale crescita economica che ripianerebbe rapidamente i debiti iniziali. Ma siamo sicuri? Invece i costi per mantenere queste promesse non saranno mai ripagati e andranno ad aumentare il nostro debito pubblico, che è già uno dei maggiori al mondo in proporzione al PIL? Negli anni 70 Ugo La Malfa, quando sentiva parlare di idee analoghe, chiedeva subito: chi paga? E proprio questo è il punto. Chi paga? Nel caso di nuovi debiti, saranno le future generazioni a vedersi presentare il conto delle spese fuori controllo fatte dai loro padri. La brevimiranza. Dietro questa visione di corto raggio c'è un problema che ha a che fare con la natura umana, la tendenza a pensare e ad agire sul breve termine, molto meno sul medio-lungo, perché il medio-lungo termine non offre gratificazioni immediate, ma richiede investimenti lungimiranti. I paesi che lo hanno fatto, e non soltanto le tigri asiatiche, hanno aumentato rapidamente la loro capacità di sviluppo. Del resto, qualsiasi investimento comporta sempre la rinuncia a consumare l'uovo oggi per avere la gallina domani, che farà più uova. Noi stiamo vivendo crisi innescate dalla brevimiranza di ieri e in mancanza di lungimiranza oggi stiamo preparando quelle di domani. Se si guardano i dati, infatti, c'è quasi sempre da rimanere scoraggiati. Siamo gli ultimi negli investimenti in ricerca, nei risultati scolastici, nella produttività, nei centri di eccellenza, nell'attrattività per gli investitori e in tantissimo altro, ma siamo tra i primi nell'evasione fiscale. Investiamo poco in tutto quello che potrebbe aiutare la nostra crescita. Ciò che conta è essere vincenti subito nella distribuzione della ricchezza prodotta, con una lotta serrata per aumentare la propria fetta. Capitolo 2. Scienza e tecnologia. Come hanno cambiato il mondo. Ma c'è di peggio. Scienza e tecnologia vengono viste, a volte, addirittura come portatrici di perturbazioni, distruzioni, inquinamenti, attribuendo loro responsabilità che sono in realtà dovute al cattivo uso che spesso le nostre società ne hanno fatto. La scienza, in particolare, è solo conoscenza, cioè scoperta. Tra l'altro, la scienza, e questo è un aspetto interessante, scopre cose che già esistono per conto loro. Qualche esempio. La relatività esisteva già prima che Albert Einstein la scoprisse, e così pure le leggi di gravitazione universale scoperte da Isaac Newton. Anche i campi gravitazionali esistevano, e le onde gravitazionali, tutte cose invisibili, ma già presenti per conto loro. In altri casi si sono capiti certi fenomeni che erano ben visibili, ma che non si sapeva cosa fossero, come per esempio i fulmini, o come il sole. Il sole sorgeva ogni mattina, ma non si sapeva cosa fosse. In passato l'interpretazione di questi fenomeni era il più delle volte di carattere mitologico. La scienza, per l'appunto, è sempre stata soltanto conoscenza, cioè scoprire cose nuove, in ogni campo. E il risultato è stato fantastico. Finalmente abbiamo capito, o cominciato a capire, un po' tutto, ovunque. Per esempio, cosa sono le stelle, come funziona il corpo umano, perché l'erba cresce, cosa c'è nell'intimo della materia, cosa c'è al centro della Terra, chi erano i nostri lontani antenati, perché piove, che cos'è il fuoco, cosa sono i terremoti, perché ogni tanto cadono pietre dal cielo, e mille altre cose. Come si è riusciti a scoprire tutte queste cose? Il segreto è racchiuso in queste parole, il metodo scientifico. Il ruolo del setaccio. Mi piace ricordare quello che tanti anni fa mi ha fatto capire e amare la scienza e che al liceo non mi avevano insegnato, il metodo. Perché il metodo è così importante per capire la scienza? Perché permette di separare il probabile dall'improbabile, il credibile dalla leggenda, il vero dal falso. Nelle grandi civiltà del passato, tutte queste cose erano spesso mescolate, mancavano regole e criteri per separare i fatti dalle opinioni, le credenze dalle cose provate. Certo, anche in passato sono esistiti grandi scienziati, specialmente nell'antica Grecia, come Archimede, Pitagora, Euclide e anche filosofi della scienza come Democrito, ma spesso nel panorama delle idee valeva il principio di autorità, l'ipse dixit. Personaggi autorevoli come Aristotele non potevano essersi sbagliati quando facevano un'affermazione, dovevano necessariamente avere ragione. Mancava, insomma, un setaccio capace di filtrare in modo indipendente la validità di una ricerca o di una scoperta. È con Galileo che si sviluppa questo setaccio attraverso il controllo sperimentale, che ha permesso la selezione delle teorie e dei risultati. Si è così cominciato a costruire teorie su fatti verificati, aprendo un'autostrada per la scienza e permettendo progressi molto più rapidi. Oggi il setaccio è quello delle riviste scientifiche, dove un ricercatore deve spiegare nel dettaglio qual è stato l'iter che ha seguito per la sua scoperta e come è arrivato a un certo risultato. In questo modo tutti hanno la possibilità di verificare, controllare ed eventualmente criticare il suo lavoro, che deve poter essere replicabile nelle stesse condizioni. In un certo senso il ricercatore deve offrire ai suoi colleghi le pallottole con cui eventualmente sparargli contro. I revisori segreti. In realtà, prima ancora della pubblicazione, c'è una valutazione segreta fatta da un gruppo di esperti anonimi. Le riviste di qualità, infatti, per tutelarsi, richiedono un parere preventivo ad autorevoli scienziati, specializzati nel settore. È la cosiddetta peer review, una valutazione che può richiedere ulteriori chiarimenti o suggerire approfondimenti, eccetera. Solo se passa questo primo controllo di qualità, la ricerca viene pubblicata. E qui naturalmente entra in gioco anche il prestigio di una rivista, perché tutti aspirano a pubblicare su grandi riviste internazionali, che sono anche una garanzia del livello di una ricerca e della sua affidabilità. Per questa ragione, quando nell'informazione appaiono scoperte sorprendenti, è sempre bene verificare dove sono state pubblicate. Sappiamo quanta pseudoscienza circoli sul web e avremo modo di riparlarne. Molti altri criteri si sono aggiunti per eliminare i possibili rischi di errore o il pericolo di cadere in qualche trappola quando si parla di teorie scientifiche. Per esempio, il filosofo della scienza Karl Popper ha proposto il cosiddetto principio di falsificabilità, cioè una teoria scientifica è tale se è falsificabile. Questo vuol dire che deve comportare degli esperimenti che permettano di verificarne la validità. Per chiarire questo concetto, mi viene in mente quello che mi diceva tanti anni fa, usando un esempio paradossale, il professor Antonio Borsellino, biofisico e filosofo della scienza. Oggi sappiamo che gli anelli di Saturno sono fatti di cristalli di ghiaccio. Se qualcuno sostenesse che hanno il gusto di una granita alla marena, nessuno sarebbe in grado di poterlo smentire. Per questo non potrebbe essere considerato una teoria scientifica, al di là del fatto di essere una solenne sciocchezza. La capacità d'autocorrezione. Gli scienziati sono ben consapevoli, naturalmente, che la ricerca è soltanto uno strumento, anche se il migliore oggi disponibile, per avvicinarsi alla verità e non pretendono di affermare cose definitive. L'esperienza ha mostrato del resto che si possono sempre scoprire nuovi livelli di conoscenze che arricchiscono e inglobano quelle precedenti. Prendiamo l'esempio delle leggi di gravitazione. Le equazioni di Newton sono sempre valide. Noi continuiamo ad andare in bicicletta con le sue leggi. Tuttavia si è capito poi, con la scoperta della relatività, che le cose sono molto più complicate. Ma la scienza non sbaglia mai? Certo. Qualche volta è successo che, malgrado i controlli, siano passate tra le maglie ricerche e dati non corretti. Però nella scienza gli errori hanno le gambe corte. Prima o poi vengono scoperti. Questa capacità di autocorrezione è un'altra preziosa peculiarità del metodo scientifico. Se poi qualcuno bara e pubblica dati falsi o scorretti, è successo anche questo, la sua carriera è finita. Perdere credibilità nel mondo della ricerca è la peggiore condanna per chi insegue la visibilità pensando di farla franca. In questo senso esiste un'etica nella ricerca scientifica che non è solo frutto di qualità personali, ma è il risultato di regole precise. E ciò aiuta a evitare errori o posizioni sbagliate. Il metodo infatti fornisce uno strumento prezioso per procedere, l'autocorrezione, un setaccio che ha funzionato molto bene da quando è entrato in azione. Ma se il metodo della scienza ci permette di arrivare solo alla conoscenza, alla comprensione dei fenomeni, allora il sapere di per sé non può creare danni, ambientali o di altro tipo. Gli scienziati del resto non hanno certo i mezzi per applicare le loro conoscenze, anzi, hanno solitamente scarsità di fondi per il loro stesso lavoro. Il problema si sposta quindi alla tecnologia. La macchina inventa tutto. La tecnologia, diversamente dalla scienza, inventa, cioè crea cose che prima non esistevano. In natura, per esempio, non è mai esistita una motocicletta e neppure una spilla da balia. Gli inventori hanno continuamente messo a disposizione degli uomini nuovi strumenti, macchine, congegni sempre più raffinati per lavorare più efficacemente, per produrre di più, per migliorare ogni aspetto della vita. Se si percorre la storia umana, si può osservare il lungo e faticoso cammino della tecnologia, dai primi strumenti agricoli all'invenzione della ruota, dalla capacità di produrre e lavorare i metalli alle tecniche per costruire in altezza, case, cattedrali, grattacieli, e poi macchine per produrre oggetti in serie, macchine per correre sulle strade, per navigare sott'acqua, per volare, sistemi per riuscire a parlare a distanza, per vedersi a distanza e mille altre cose che vediamo intorno a noi, dal cinematografo alla pentola a pressione, dalla sedia a sdraio all'intelligenza artificiale. Ma naturalmente anche armi. Armi sempre più potenti per combattersi e distruggersi a vicenda. Neanche gli inventori dispongono personalmente dei mezzi finanziari per costruire tutte queste cose. Le realizzano solo le imprese, i militari, i governi. È quindi la gestione di questa macchina inventa tutto che è all'origine dei guasti provocati da un utilizzo spensierato e imprevidente degli strumenti forniti dalla tecnologia. Ma la tecnologia è anche molto di più. È la vera protagonista dello sviluppo culturale di un paese. Prendiamo un esempio, un libro e il suo lettore. Il libro, sostanzialmente, è il punto di arrivo di una catena di tecnologie altamente consumatrici di risorse e di energie. Macchine per stamparlo, alberi per produrre la carta necessaria, camion per trasportare gli alberi, benzina per far andare i camion, raffinerie per produrre benzina, fabbriche per costruire macchine tipografiche, industrie chimiche per gli inchiostri, i colori, le colle, eccetera. Senza una parte di questa catena tecnologica, i libri si scriverebbero ancora a mano e solo pochissime persone potrebbero leggerli. Analogamente, ogni lettore, per diventare tale, ha dietro di sé una lunga catena tecnologica ed energetica. Se si facesse il conto di quante risorse, petrolio, carbone, macchinari, energia, servono per produrre un lettore, ci si accorgerebbe che si tratta di una cifra strabiliante. Un diploma e una laurea significano infatti 10 o 20 anni di studio con un consumo secco, cioè senza contropartita in lavoro, in tutti i campi. Aule, insegnanti, trasporti, abiti, cibo e naturalmente libri. Senza questa catena di energia e tecnologia, i lettori sarebbero incapaci di leggere perché dovrebbero pascolare le pecore fin dall'infanzia, così come è sempre avvenuto. La stessa sorte toccherebbe a violinisti, pittori e scrittori, tutti a pascolare le pecore, anziché dipingere, scrivere e suonare. Si dice spesso che la nostra è oggi una società di tecnici e di scienziati. A dire il vero, è soprattutto una società di artisti e di intellettuali. In nessuna epoca del passato, infatti, la società ha potuto contare su un numero così grande di musicisti, giornalisti, compositori, storici, poeti, eccetera. Di filosofia va detto, oggi abbiamo un gran bisogno. Una filosofia, però, che rifletta sul prorompente sviluppo che stiamo vivendo. Esiste certo una filosofia della scienza, ma abbiamo urgente bisogno anche di una forte filosofia della tecnologia, che studi tutte le contraddizioni della nostra crescita, sempre più veloce, e ci aiuti a trovare delle regole stringenti. E la sapienza di farle osservare. È anche questo il gravissimo ritardo della nostra cultura e della nostra politica a entrare nella modernità. L'invenzione dell'energia. Nell'elenco delle invenzioni citate prima ne mancava però una, la più importante. Quella che più di ogni altra ha reso possibile lo sviluppo ed è l'energia, o meglio, le nuove fonti energetiche. Già perché le fonti energetiche, contrariamente a quanto spesso si dice, non sono ricchezze naturali, sono invenzioni. Il petrolio, nell'antichità, non è mai servito per produrre energia. E così pure il carbon fossile. Ma sono queste le vere invenzioni che oggi hanno cambiato il mondo, più ancora delle macchine. Di macchinari ne sono stati costruiti parecchi in passato, pensiamo per esempio alle straordinarie macchine di Leonardo da Vinci, ma essendo prive di energia giacciono inerti, allineate nei musei. In passato l'unica energia era quella muscolare degli uomini e degli animali, oppure quella dei mulini a vento o ad acqua. Si trattava però di un'energia limitatissima e non trasportabile. Poteva essere usata solo sul posto, localmente. Con le invenzioni capaci di produrre movimento, a partire dal carbone, dal petrolio, dal gas metano e via via alle altre fonti, come il nucleare o il solare, non soltanto è stato possibile produrre enormi quantità di energia, ma anche trasportarla ovunque, attraverso linee elettriche, petroliere, gasdotti, camion cisterna, eccetera. È stato questo il grande cambiamento, perché le ruote hanno potuto cominciare a girare ovunque e a dare inizio alla rivoluzione industriale. Tutto è cominciato nella seconda metà del Settecento. Come si sa, fu un ingegnere inglese, James Watt, a inventare la prima macchina a vapore, usando il calore del carbone per trasformare la pressione del vapore in movimento. Con Watt le prime ruote cominciarono davvero a girare e a dare inizio in Inghilterra alla rivoluzione industriale. Ma qui va ricordato il grande contributo alla creazione di nuove forme di energia dato dagli scienziati italiani. In particolare Galileo Ferraris, che nella prima metà dell'Ottocento inventò il motore elettrico a corrente alternata, che è ancora oggi il motore più diffuso nelle applicazioni industriali. Non tutti sanno che altri due italiani, il fisico Eugenio Barsanti di Pietrasanta e l'ingegnere Felice Matteucci di Lucca, a metà dell'Ottocento inventarono il primo modello di motore a scoppio, o meglio a combustione interna. Diedero inizio persino a una produzione industriale in Belgio, ma il progetto non andò avanti perché Barsanti morì poco dopo e Matteucci non riuscì a far fronte alla gestione aziendale. Anni dopo, quando il tedesco Nikolaus August Otto fu ritenuto l'inventore del motore a scoppio, Matteucci cercò di rivendicarne la paternità, senza successo. Nel frattempo Otto aveva migliorato il motore rendendolo più potente. Solo nel 2004, grazie all'iniziativa della Fondazione Barsanti e Matteucci di Lucca, è stata finalmente riconosciuta la priorità della loro invenzione. E molti altri italiani hanno avuto un ruolo importante nell'invenzione di nuove energie. Non ultimo, naturalmente, Enrico Fermi, con l'energia nucleare. Se si guarda il contributo di scienziati e inventori italiani tra il Settecento e i primi del Novecento, non solo nel campo dell'energia ma ovunque, c'è da rimanere sorpresi nel vedere quanto è stata importante la creatività dei nostri ricercatori. Ancora negli anni del dopoguerra, le eccellenze italiane primeggiavano nei settori più avanzati, nella chimica, con l'invenzione della plastica, nell'elettronica, con l'invenzione dei primi prototipi di computer, nel nucleare, con lo sviluppo pioneristico di centrali, e nello spazio. L'Italia è stata il terzo paese al mondo, dopo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, a lanciare in orbita un proprio satellite. Tutto questo va detto a proposito della capacità creativa e innovativa del nostro paese, un patrimonio che oggi non viene più valorizzato, sia per la mancanza di una cultura che non ha compreso il ruolo propulsivo della scienza e della tecnologia, sia anche per la progressiva diminuzione di quelle aziende avanzate che sono i vivai dell'innovazione e offrono posti di lavoro creativi a giovani particolarmente brillanti che dopo l'università si impegnano per lunghi anni in dottorati di ricerca. Molti di loro trovano oggi occupazioni remunerative all'estero. Quanta perdita di energie e di talenti! Credo che tutto questo richieda oggi di rileggere la storia dell'umanità in modo completamente diverso rispetto al passato. È una storia meno gloriosa, più nascosta, ma che ha cambiato il mondo molto più di tutti gli eventi che si sono succeduti nel corso dei secoli e che abbiamo studiato sui libri di scuola. Nascite e cadute di imperi, battaglie, successioni al trono, guerre di conquista, grandi personaggi, lotte di religione, eccetera. È la storia dei cambiamenti avvenuti attraverso lo sviluppo delle conoscenze e delle innovazioni. Vale la pena di dedicare qualche pagina a questi cambiamenti perché tendiamo troppo a dimenticare cos'era il nostro paese in mancanza di tecnologia ed energia. Basta sfilare queste due cose ed ecco quello che succede. I dati sono quelli storici dell'Istat. Un'Italia irriconoscibile. Com'era l'Italia appena riunita politicamente poco dopo il 1861? Ecco un breve ritratto di un paese come il nostro che, se con un'impossibile macchina del tempo potessimo visitare, faticheremmo davvero a riconoscere. Il 70% della popolazione era analfabeta, con punte di oltre l'80% nel meridione e fra le donne. Del resto, in media, ogni italiano verso il 1870 andava a scuola per meno di un anno. Oggi ci andiamo in media quasi 12 anni. Gran parte dei lavoratori erano impiegati in agricoltura, oltre il 67%. Di pensioni, nemmeno a parlarne. E a parte le associazioni caritatevoli, La vera protezione contro la vecchiaia erano i figli numerosi. Vacanze, weekend, viaggi, cena al ristorante, tutte amenità che erano, per la stragrande maggioranza degli italiani di un secolo e mezzo fa, sogni inimmaginabili e riservati a poche élite ricche e benestanti. Un quadro, per noi cittadini della civiltà del benessere, agghiacciante, anche se in quelle condizioni ognuno poi trovava naturalmente i suoi momenti di allegria, conforto, amore. Questa povertà generalizzata, con tutte le sue conseguenze, è stata la regola per secoli e millenni, sia pure con alti e bassi, in tutte le popolazioni e con qualunque modello politico. L'inefficienza nel produrre beni di qualunque tipo era totale. La mancanza di conoscenze, di macchine e soprattutto di energia rendeva certe cose impossibili da realizzare. Tutto questo incideva anche sulla composizione della popolazione. Gli anziani erano pochi perché la vita media era molto più breve di oggi, appena 33 anni contro gli oltre 80 attuali. La vita media risultava così bassa non solo perché si moriva presto, ma anche perché la mortalità infantile era altissima. Un terzo dei bambini non arrivava ai 5 anni. Anche la mortalità da parto era elevatissima. 40 donne su 1000 non superavano il lieto evento. Paradossalmente, all'epoca, era più pericoloso e letale partorire in ospedale che a casa. Le condizioni igieniche degli ospedali di allora erano infatti terrificanti. Le cure mediche, ancora senza basi scientifiche solide, non salvavano molte vite, specialmente tra i più poveri. La massa delle persone che viveva in povertà assoluta, per le quali cioè il reddito annuale non era sufficiente per le necessità di base, era del 43%, con punte di oltre il 50% nel mezzogiorno. Oggi, per fare un paragone, l'indice di povertà assoluta è al 9%. Tra i poveri, quasi la metà del reddito annuale veniva speso per il cibo, che si riduceva al pane e a poche verdure. L'abbigliamento non comprendeva più di un paio di abiti, quello buono per le grandi occasioni e quello da lavoro, usati, riusati, rivoltati e rattoppati fino al logoramento completo. E anche passando dagli aspetti economici e demografici a quelli dei diritti civili, la situazione non migliorava. Anzi, e questo non riguardava solo l'Italia, ma tutto il mondo civilizzato di pochi secoli fa. I diritti e le garanzie per un imputato erano pochi. La tortura era una pratica corrente, legalmente riconosciuta. Le confessioni uscivano spontanee, persino da coloro che erano innocenti. Le piazze d'Europa erano piene di esecuzioni crudeli. Nel corso dei secoli si sono succeduti molti modi per essere giustiziati, dal taglio della testa all'impalamento, dal rogo allo squartamento, dalla lapidazione al pasto dei leoni. C'era anche il supplizio della ruota. Al condannato venivano spezzate le ossa lunghe e veniva esibita pubblicamente la sua lenta agonia. Se andava bene c'era la ghigliottina, introdotta proprio per ragioni umanitarie, per non far soffrire il condannato. La schiavitù, esplicita o implicita, era del resto molto diffusa ovunque nel mondo. Fino al secolo scorso c'erano uomini e donne che venivano venduti come animali sui mercati, in Nord America, in Sud America, in Africa, in Asia, in Medio Oriente. Si dice spesso, naturalmente, che non esiste solo la violenza fisica, ma anche quella psicologica e morale. Da questo punto di vista le cose in passato andavano meglio di oggi? In realtà, nelle famiglie patriarcali regnava un autoritarismo assoluto. Altre violenze si consumavano tra le mura di casa. Studi fatti sulle società contadine del passato, anche in Italia, hanno mostrato un'altissima percentuale di incesti in famiglia. La miseria generalizzata faceva sì che i bambini lavorassero sin da piccoli nei campi. A volte venivano dati a padrone, cioè affittati a estranei, dietro compenso per lavori duri. Si sa del resto che molti bambini sono stati impiegati nel secolo scorso nelle miniere, anzi nelle gallerie più profonde, dove potevano strisciare più facilmente degli adulti. La mortalità infantile era altissima. Nell'Ottocento una statistica fatta in Germania indicava che metà dei neonati moriva prima di compiere un anno e dei superstiti la metà moriva prima dei 20 anni. Indagando per esempio nello stato di famiglia di Luigi XIV, il Re Sole, si scopre che su 18 figli avuti da lui a corte, 12 morirono in età infantile, cioè 2/3. Chi vorrebbe tornare indietro nei secoli? Sono soltanto alcuni esempi. Basterebbe pensare anche a quella che era la condizione della donna in famiglia, sul lavoro, in società. In altri libri ho scritto, scherzando ma non troppo, che la liberazione femminile è un sottoprodotto del petrolio, cioè una conseguenza del ruolo liberatorio dell'energia, come lo è stata del resto anche la liberazione dell'uomo. Lo sviluppo umano, nei suoi vari aspetti, sociale, economico, educativo, è il frutto di una lunga storia dove tecnologia ed energia hanno avuto un ruolo fondamentale. Ed è proprio nell'Ottocento che a un certo punto le cose cominciano a cambiare, sempre più rapidamente. Da Garibaldi alla Luna. La curva della crescita economica, rimasta per secoli quasi piatta, inizia a crescere sempre più velocemente. Proprio perché per la prima volta nella storia gli uomini riescono a ottenere energia da tante altre fonti diverse. A quel punto tutto cambia. Con la macchina a vapore entrano in campo nuove fonti di energia, i combustibili fossili. Prima il carbone e poi il petrolio e il gas. Nel giro di poco più di un secolo le ruote e le eliche cominciano a girare ovunque. Nei campi, nelle officine, sulle strade, nelle case, sui mari e nei cieli. La vita viene trasformata in modo inimmaginabile, soprattutto dopo la metà dell'Ottocento. La metà dell'Ottocento a noi sembra un'epoca lontana, è quella del Risorgimento di Cavour e Garibaldi. In realtà non lo è così tanto in termini di generazioni. Pensate che mio padre, quindi stiamo parlando di una sola generazione fa, era un contemporaneo di Garibaldi. Era nato nel 1875, quando Garibaldi morì nel 1882, aveva quasi 8 anni. Avrebbe potuto conoscerlo. Mio padre nacque nella società della Zappa, ma quando compì 70 anni vide l'esplosione della bomba atomica. Tutto questo nell'arco di una sola vita. Mia madre mi raccontò che quando era bambina a Torino vide dei manifesti che annunciavano i primi tentativi di volo in un prato di periferia. I manifesti dicevano «De Lagrange volerà o non volerà». Ebbene, mia madre vide lo sbarco sulla Luna. Del resto, quando io sono nato nel 1928, la mia speranza di vita era di soli 52 anni. Ho superato i 93. All'epoca non c'erano antibiotici, si moriva per una semplice infezione. Nell'arco di 2 sole generazioni si è passati dall'analfabetismo di massa all'intelligenza artificiale. Pensate che salto. Ma la nostra cultura ha seguito la stessa curva? C'è stata una parallela preparazione per gestire la transizione in modo adeguato? In realtà quello che è successo è che la velocità dei cambiamenti è stata più rapida della velocità degli adattamenti ed è probabilmente questa una delle cause dei problemi che ci troviamo oggi a dover affrontare. 3 colonnine che la dicono lunga. Tutto questo ha voluto anche dire una profonda trasformazione nel mondo del lavoro. Da quando le ruote hanno cominciato a girare ovunque, i mestieri hanno subito un cambiamento impressionante. Questo cambiamento lo si può riassumere in modo schematico in 3 colonnine che rappresentano i 3 grandi settori dell'economia di un paese: primario, secondario, terziario. Sono 3 colonnine che forniscono subito l'identità di un paese, il suo stadio di sviluppo, un po' come avviene per un riconoscimento facciale. Nel 1861 gli addetti all'agricoltura in Italia erano il 67%, gli addetti all'industria il 17,9%, gli addetti ai servizi il 15,1%. Oggi ecco qual è la situazione. Gli addetti all'agricoltura sono precipitati al 3,6%, producendo però infinitamente più cibo. Quanto agli addetti all'industria, si è verificato questo strano fenomeno. Più una società è industrializzata, meno ha addetti all'industria. Anche in Italia, dopo un primo periodo di crescita con l'arrivo dell'automazione, gli addetti sono scesi e rappresentano oggi solo il 23,2%. C'è stata invece una vera esplosione di coloro che lavorano nei servizi. Oggi sono il 73%. Il settore dei servizi comprende tante aree, come si sa: commercio, amministrazioni, uffici, servizi pubblici, a cominciare dalla scuola, le attività culturali e artistiche, la ricerca, l'intrattenimento, eccetera. Questo vuol dire non solo che sono aumentati enormemente gli impiegati, gli ingegneri, gli avvocati, i medici, ma che hanno potuto moltiplicarsi anche nuove professioni a misura d'uomo. Ecco un piccolo panorama di queste professioni, un tempo rare o inimmaginabili. Giornalisti, storici, grafici, stilisti, politologi, coreografi, sociologi, opinionisti, scenografi, romanzieri, oceanografi, epistemologi, nutrizionisti, pubblicitari, registi, pittori, linguisti, calciatori, animatori, cameraman, programmatori, telecronisti, arbitri, allenatori, scultori, estetiste, DJ, medievalisti, presentatori, gastronomi, cantautori, insegnanti, ricercatori, semiologi, commediografi, archeologi, saggisti, fisioterapisti, indossatrici, maestri di tennis, fotografi di moda, eccetera. Quando mai? In passato tutti a zappare e a pascolare le pecore. La nascita della democrazia. Ma c'è di più. La tecnoenergia ha permesso alle società avanzate di realizzare finalmente dei sistemi democratici, perché consente ai cittadini di avere un'istruzione adeguata, di partecipare alla vita politica, di essere informati, di disporre di mezzi di comunicazione per far circolare le idee, giornali, libri, televisioni, web, di non essere più sudditi, ma donne e uomini che dispongono di potere economico e mediatico, organizzati in gruppi di pressione in grado di influenzare la politica e agire sull'opinione pubblica. È per questo motivo che è così difficile esportare automaticamente modelli democratici moderni in paesi arretrati. Si possono esportare le macchine, ma non il contesto. Questo cambiamento storico non si può realizzare da un giorno all'altro e sono stati avvantaggiati i paesi che erano già più preparati a entrare nell'era moderna. Alcuni però che nel dopoguerra appartenevano ancora al cosiddetto terzo mondo, investendo tantissimo in innovazione e in educazione, hanno recuperato in poco tempo molto terreno. Sono i paesi asiatici, diventati oggi estremamente competitivi, non soltanto per i loro prodotti altamente tecnologici, ma anche per lo sforzo educativo che li ha portati a risultati sorprendenti. È ancora largamente diffusa l'idea, specialmente in Italia, che siano i programmi politici, i cambi di maggioranze, i risultati elettorali, eccetera, a modificare le cose. Ovviamente la politica è molto importante perché è lei che opera le scelte economiche e sociali di un paese, governa il sistema, definisce le priorità, decide gli investimenti, stabilisce i criteri distributivi, emana le leggi e determina tantissime altre cose. Ma può farlo solo nella misura in cui possiede, oppure no, una macchina della ricchezza che giri bene. Credo che valga la pena di chiarire meglio questo concetto perché è proprio una delle idee di fondo alla base di questo libro ed è uno dei punti critici del nostro paese. Attribuire alla politica capacità e ruoli che non sono di sua competenza. Avevo dedicato a questo argomento proprio un precedente libro intitolato A cosa serve la politica? E citavo un dato, la differenza di reddito tra due paesi europei, la Svezia e la Romania. Nel 2021 il reddito pro capite della Svezia è stato di 53.000 euro, quello della Romania di 11.600 euro. Ebbene, se un politico romeno in campagna elettorale annunciasse «Cari concittadini, se mi eleggerete avrete salari di tipo svedese», potrebbe mantenere le sue promesse? Ovviamente no, neppure se ottenesse la maggioranza assoluta e le piazze si riempissero di cortei per sostenerlo. Perché il reddito, come pure l'assistenza e tutto il resto, dipende soprattutto da come funziona la macchina della ricchezza. Una pagella sconcertante. L'Italia, come si sa, non possiede quasi risorse naturali e fonti energetiche. È un'economia di trasformazione che si basa sull'efficienza produttiva, cioè sulla capacità di competere, di fare meglio le cose, di inserire nei suoi sistemi più conoscenza, attrattività, ricerca, efficienza, eccetera. Tuttavia, analizzando questi aspetti, c'è invece da rimanere demoralizzati. La produttività, per esempio, che è in pratica l'indice di efficienza di un paese, è cresciuta pochissimo negli ultimi 25 anni. Siamo gli ultimi della classe in Europa. Nel periodo 1995-2020, ogni anno, in media, la produttività del lavoro italiana è cresciuta dello 0,3-0,4%, decisamente meno rispetto all'1,5% annuo dell'Europa. Ma anche di paesi come la Germania, più 1,2%, o la Francia, più 1,3%. E allo stesso modo siamo nelle posizioni di coda per il finanziamento della ricerca, per i risultati scolastici, per il riconoscimento del merito. Invece siamo primatisti nello scaricare sul debito pubblico le spese di promesse elettorali senza copertura, obbligandoci a pagare interessi più o meno alti a chi ci presta i soldi. E siamo anche primatisti nell'evasione fiscale. Ma c'è di peggio. La Banca Mondiale pubblica ogni anno una ricerca sulla facilità di fare impresa nei vari paesi, cioè sull'esistenza o meno di condizioni favorevoli che inducano un investitore ad avere fiducia in quel paese. Ebbene, anche qui è un mezzo disastro. L'Italia nel 2021 si è piazzata al 58esimo posto in questa classifica. Qualche anno fa, nel 2018, era al 46esimo posto. Le cose sono quindi peggiorate. Siamo dietro a tutti i paesi europei, compresi Romania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, ma anche dietro alla Malesia, 12esima, alla Thailandia, 21esima, e al Ruanda, 38esimo. Si tratta di un indice calcolato tenendo conto di 10 aspetti che possono favorire o sfavorire il mettere in piedi un'attività imprenditoriale, come per esempio chiedere permessi, assumere lavoratori, ottenere credito, registrare una proprietà, facilità nel pagare le tasse, far rispettare i contratti, procedure per il fallimento, eccetera. Ma anche nei singoli aspetti del fare impresa non andiamo bene. Per le tasse siamo al 118esimo posto, per l'accesso al credito al 112esimo, per i permessi di costruzione al 104esimo e per il rispetto dei contratti al 111esimo. Insomma, nella competizione internazionale, con quale macchina speriamo di vincere? Con una vecchia utilitaria? Certo contano gli obiettivi, i progetti, le scelte di percorso, cioè la politica, ma diventa difficile competere con chi ha macchine che funzionano meglio, più veloci e sicure. Perché abbiamo una vecchia utilitaria? Sono ormai molti anni che gli esperti del Fondo Monetario Internazionale, dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico in Europa, della Banca d'Italia, analizzano le cause della bassissima crescita della produttività nel nostro paese. Naturalmente i motivi sono molteplici e si intrecciano fra loro provocando appunto, come risultato finale, la bassa crescita. Ecco un rapido elenco delle principali palle al piede, le zavorre, che ci impediscono di tenere il passo con i nostri concorrenti europei. Cominciando dalle imprese. Le loro dimensioni sono troppo piccole, frammentate e non riescono quindi a investire in ricerca e innovazione. Anche i settori produttivi sono in maggioranza quelli a medio-basso contenuto tecnologico, dove la crescita è più difficile. Ci sono poi le aziende zombie, in perdita perenne, più tecnicamente che per 3 anni consecutivi non sono riuscite a ripagare gli interessi sui prestiti e che rimangono sul mercato bloccando risorse che potrebbero invece andare ad aziende più produttive. Non funziona cioè quello che il grande economista austriaco Josef Schumpeter aveva definito la distruzione creatrice, cioè l'eliminazione delle imprese incapaci di tenere il passo per lasciare il posto a quelle più innovative. A questo poi si aggiungono le inefficienze della pubblica amministrazione, l'esasperante lentezza della giustizia civile e clientelismi, corruzione, evasione fiscale e altri guai. Ma non è tutto, perché anche la forza lavoro non è quella più adatta a un paese moderno. Per esempio, la disoccupazione fra i laureati nella fascia di età 25-39 anni è dell'8-13% contro il 2-4% in Germania. Una delle cause è l'eccesso di lauree in discipline artistiche, umanistiche e in scienze sociali, che sono il doppio in Italia rispetto alla Germania. Da qui lo scollamento fra quanto chiedono le imprese e quanto offre il sistema scolastico. Così, di fronte a una disoccupazione giovanile altissima, 23,1% nel 2022, le aziende faticano a trovare le figure professionali necessarie. Sono quasi 200.000 gli addetti che le imprese hanno richiesto ogni anno, mentre il sistema scolastico ne prepara sì e no un terzo. E questo fenomeno di scollamento, secondo alcuni studi, è andato peggiorando dal 2000 a oggi. Infine c'è il basso investimento in ricerca e sviluppo, e anche qui l'Italia risulta fanalino di coda dell'Europa. Spendiamo l'1,3% del PIL in ricerca e sviluppo contro una media del 2% del resto dell'Unione Europea. Anche altri indici non ci vedono in buona posizione. Il DESI, Digital Economy and Society Index, che in breve misura i progressi della digitalizzazione nella società, e quindi la capacità di utilizzare le nuove tecnologie, ci vede quart'ultimi in Europa, prima di Polonia, Bulgaria e Romania, e sempre nelle ultime posizioni se consideriamo l'utilizzo di internet a banda larga. Si potrebbe continuare scendendo ancora più nel dettaglio, ma quello che manca non sono misure correttive, delle toppe, per così dire, da mettere qui e là. Il problema è di cultura generale. Capire l'importanza della scienza e della tecnologia nello sviluppo delle nostre società e per il benessere di tutti i cittadini ci porterebbe, ci viene quasi da dire per incanto, a cambiare il clima culturale e a prendere tutte le iniziative necessarie per invertire la rotta e riprendere, dopo 30 anni, una crescita produttiva dignitosa. Produttività, creatività, efficienza. Per concludere questo discorso sull'importanza della scienza e della tecnologia, c'è un concetto che vale la pena ricordare, ed è che si possono realizzare oggetti o sistemi più o meno efficienti a seconda dell'intelligenza che si mette dentro, cioè dell'informazione intesa come messa in forma. Con la stessa quantità di materiali o di energie, si possono costruire cose che consumano meno o che funzionano meglio di altre. In sostanza, l'informazione si può definire il software, cioè appunto quell'intelligenza che permette rese più alte, ottenendo di più con meno, in breve di aumentare la produttività. C'è uno studio molto illuminante che ci fa capire in modo concreto cosa sia la produttività del lavoro umano. Quanti lavoratori servono ad arare la superficie coltivata a grano degli Stati Uniti? Si tratta ovviamente di calcoli teorici, ma che ci danno un'idea di cosa significhi aggiungere intelligenza al lavoro. Con il metodo più antico, la zappa, servono 6 milioni di uomini. Con l'aratro, trainato dai buoi, si scende a 1 milione. Con l'aratro tecnicamente avanzato del 1855, trainato dai buoi, 500.000. Con l'aratro a dischi, trainato dal trattore, 4.000. In altre parole, le macchine e le nuove fonti energetiche che mettono in moto quelle macchine hanno migliorato di 1.500 volte la produttività del singolo lavoratore. Quello che facevano 1.500 lavoratori con la zappa lo fa un solo lavoratore con il trattore. E fra l'altro, quel lavoratore non si spezza più la schiena con la zappa, ma guida un trattore in una cabina con l'aria condizionata e guadagna 1.500 volte quanto avrebbe preso uno zappatore. Perché, è bene sottolinearlo, è l'aumento della produttività del lavoro che fa aumentare salari e stipendi, non qualche decisione presa dalla politica. La produttività sta aumentando ancora con l'introduzione di nuova intelligenza, o meglio, dell'intelligenza artificiale nei trattori, che adesso potranno arare da soli i campi, senza che nessuno li guidi, diretti da sensori collegati con le mappe del GPS. Naturalmente qualcuno che programmi e controlli l'aratura automatica ci vorrà sempre, ma saranno molti meno dei 4.000 guidatori del trattore e guadagneranno molto di più. Ecco come l'intelligenza, e se vogliamo l'informazione, inserita nelle macchine e nel sistema, migliora in continuazione la produttività del lavoro e la sua remunerazione. E ovviamente la produttività in campo agricolo non dipende solo dall'aratura, ma anche da migliori qualità di piante, irrigazioni e concimi più efficienti, raccolta e distribuzione più capillari. Insomma, i miglioramenti che abbiamo visto nell'aratura si ripetono in molti altri aspetti del lavoro agricolo, in quello industriale e nei servizi. Il silenzio della cultura. La cosa sconcertante è che di tutto questo si parla molto poco nei dibattiti politici. Il confronto tra le parti è centrato sempre sulla distribuzione della ricchezza, non sulla sua produzione, e riguarda il presente, anzi il presente immediato. Questo succede perché è così che si possono catturare maggiori consensi e più voti alle elezioni. Basta seguire i dibattiti in televisione o leggere le dichiarazioni dei politici, soprattutto di certi politici, per rendersene conto. Si potrebbe anche concedere che tutto ciò in fondo appartenga al gioco delle parti, ma la cosa più grave è che anche coloro che non sono coinvolti direttamente nella dinamica politica, intellettuali, opinionisti, giornalisti, saggisti, storici, economisti, eccetera, vengono risucchiati dai temi dell'attualità, con la loro forte carica emotiva e le continue polemiche, dimenticando i livelli e le dimensioni sottostanti. L'alta cultura poi è ancora più lontana da questi orizzonti. E qui spunta quel particolare fenomeno che è stato definito delle due culture. Le due culture. Bisogna dire che la difficoltà della cultura umanistica a integrarsi con quella scientifica non è un fenomeno soltanto italiano. Persino in Inghilterra, un paese così aperto alla scienza, Il problema fu affrontato in un vivace dibattito grazie a un libretto intitolato Le due culture. Lo aveva scritto già nel 1959 Charles P. Snow, un intellettuale, scienziato ma anche romanziere, denunciando il ritardo della cultura tradizionale a entrare nel pensiero moderno, non solo per quel che riguarda la scienza, ma anche la tecnologia, che ha bisogno pure lei di una cultura capace di capire e partecipare al grande processo di adattamento in corso. Ma cosa c'è veramente alla base di questa separazione tra le due culture? I motivi sono vari. Forse il principale è che, anche se non si è degli specialisti, la letteratura si può leggere, la musica si può ascoltare, l'arte si può ammirare. È il giardino dei piaceri intellettuali. Scienza e tecnologia invece no. Un articolo di scienza in originale è incomprensibile per un letterato o per chiunque non abbia serie conoscenze scientifiche, e così è per il funzionamento di una macchina. Inoltre, letteratura, musica e arte sono impregnate di immaginazione, di emozioni e di fantasia, la scienza e la tecnologia invece di rigore. Tutto questo ha portato a un paradosso. Un'attività intellettuale così alta come quella scientifica ha una rilevanza minima nella cultura. Un giorno ho letto una frase di un fisico, che è anche filosofo della scienza, che diceva testualmente: «Tutto quello che si sa l'ha scoperto la scienza. Punto». Sul momento mi è parso un'affermazione piuttosto arrogante. Poi mi sono chiesto: ma effettivamente quale altra attività umana consente davvero di sapere, non di ritenere, pensare, presumere, immaginare, essere convinti di, ma di conoscere veramente, e di passare quindi da convinzioni personali, soggettive, a una conoscenza condivisa, sia pure con tutta la provvisorietà necessaria? La verità è che la cultura è unica nella sua grande diversità e nella sua grande ricchezza. Le due culture si possono e si debbono integrare in una visione d'insieme che valorizzi entrambe. Leonardo da Vinci ne sapeva qualcosa. Per possedere una cultura scientifica non è necessario conseguire una laurea in fisica, biologia o ingegneria. Conosco persone di formazione letteraria che hanno una visione lucidissima sulle problematiche della scienza e della tecnologia. Infatti basta acquisire familiarità con le regole di base, capire la loro grammatica, informarsi, leggere qualche libro giusto e comprendere le cose essenziali. Capire per esempio l'importanza di investire nella scienza e nella tecnologia, di preparare i giovani per questa nuova società, di moltiplicare i centri di eccellenza, di ascoltare gli esperti, di acquisire in sostanza una mentalità e una preparazione in linea con i tempi. Capire che non esiste soltanto un ecosistema naturale, ma anche un ecosistema artificiale dove ogni cosa influenza ogni altra. Perché quella complessa interconnessione che esiste in natura, tra vegetazione, temperatura, luce, acqua, humus, precipitazioni, nella nostra società, esiste anche tra macchine, energia, industria, scuola, innovazione, conoscenza e molto altro. Gli inquinamenti non sono soltanto quelli dei gas serra, ma sono soprattutto quelli dovuti alla difficoltà e a volte all'incapacità di gestire sistemi complessi. Abbiamo cioè bisogno, come già ricordato, di una filosofia della tecnologia che consenta una gestione più intelligente del sistema. Come aveva detto il fisico e filosofo Giuliano Toraldo di Francia, bisogna avere certo tecnologie a misura d'uomo, ma anche e soprattutto uomini e donne a misura di tecnologia. Naturalmente siamo molto fieri della nostra cultura umanistica che ha permeato la società e la scuola. Ed è con questo tipo di cultura che si è formata la classe dirigente e anche la classe politica che ha la responsabilità di guidare la nazione. Il fatto è che in passato l'orizzonte era soprattutto quello dei propri confini. Le cose cambiavano lentamente. Quello che avveniva altrove era assai meno determinante. Oggi l'orizzonte è diventato globale e la crescente rete di connessione ha fatto entrare letteralmente il mondo in casa nostra. È ben evidente che alla base di tutto questo deve esserci un'educazione che, cominciando dalla scuola, sia in grado di far entrare nel mondo moderno cittadini e classi dirigenti. Ed è proprio nella scuola che continuerà ora il nostro percorso. Capitolo 3. La scuola. Un passaggio fondamentale. La scuola è la prima cosa a cui si pensa quando si parla di educazione ed è effettivamente un passaggio fondamentale per ogni giovane. un genitore consegna il cervello dei suoi figli nelle mani degli insegnanti e lo ritira poi a fine studi, sperando che in tutti quegli anni sia stato arricchito non solo di competenze e di cultura, ma anche di valori e della capacità di capire il mondo in cui vive. Non sono però soltanto i genitori a consegnare il cervello alla scuola, è l'intera comunità, perché è dalla scuola che uscirà anche il cervello del paese. Quali sono i risultati? In particolare, come è messa l'Italia in confronto agli altri paesi avanzati, i nostri competitori? È sempre difficile fare paragoni in un campo dove entrano in gioco tanti fattori, ma l'OCSE ha cercato di trarre qualche indicazione sottoponendo studenti delle principali nazioni industrializzate a una serie di test di matematica, di lettura e comprensione di un testo scritto e di scienze per valutare il loro rendimento scolastico all'età di 15 anni. A partire dal 2000 i test si svolgono ogni 3 anni e coinvolgono un numero crescente di paesi. Nell'ultimo, tenutosi a Pisa nel 2018, le nazioni coinvolte erano 79. A causa della pandemia, i test del 2021 sono stati rinviati. I risultati sono tristemente questi. L'Italia non risulta a ogni consultazione piazzata benissimo. Test sul rendimento scolastico Pisa 2018. Lettura testo. Prima Cina, 555. Secondo Singapore, 525. 32esima Italia, 476. Media OCSE, 487. Matematica. Prima Cina, 591. Seconda Singapore, 569. 31esima Italia, 487. Media OCSE, 489. Scienze. Prima Cina, 590. Seconda Singapore, 551. 40esima Italia, 468. Media OCSE, 489. Non solo quindi l'Italia è lontanissima dai primi in classifica, ma è anche al di sotto della media OCSE, cioè della media dei soli paesi appartenenti alla Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Questa situazione è tale da tantissimi anni. Ricordo che me ne occupai in un telegiornale nel 1973. Da allora poco o niente è stato fatto per realizzare veramente un balzo qualitativo e riportare il nostro paese in quota. La cosa che più mi colpì già all'epoca non erano solo le carenze nelle materie tradizionali, ma i bassi risultati nella comprensione di un testo, cioè nella capacità di riassumere un testo appena letto. Sappiamo che questi risultati vanno interpretati tenendo conto di tanti elementi, tra l'altro le notevoli differenze tra il nord e il sud in Italia, fatta salva l'esistenza anche al sud di situazioni di eccellenza. Ma non è possibile che un problema così macroscopico non venga affrontato con l'impegno che richiederebbe. Dietro ci sono le famiglie. Va anche detto che una parte del problema è legata probabilmente al passaggio da una scuola elitaria a una di massa, che ha finalmente permesso a un gran numero di giovani di accedere agli studi, portandosi però spesso dietro il peso di situazioni socio-economiche e culturali iniziali svantaggiate. Perché dietro agli studenti ci sono le famiglie, c'è l'importanza che esse danno allo studio, ci sono gli stimoli, i discorsi che si fanno a tavola, il valore dato all'educazione, le frequentazioni, i libri letti o non letti. È un problema che viene da molto lontano e me ne resi conto quando nel 1973 realizzai una serie televisiva e un libro sullo sviluppo mentale del bambino, da 0 a 3 anni. Una serie di dati convergenti, infatti, rivelarono a quell'epoca l'importanza del rapporto tra genitori e figli, e in particolare il rapporto con la madre, per aiutare il bambino a sviluppare le sue potenzialità, curiosità, intelligenza, affettività, linguaggio e molto altro. Certi sviluppi hanno, per così dire, delle finestre critiche. Se non avvengono in quel periodo, hanno difficoltà ad avvenire in seguito. Quello che mi colpì fu che in certi casi alcuni bambini arrivavano in prima elementare già svantaggiati e questo poteva preludere a un insuccesso nella scuola, con conseguenze negli studi e nella vita. Il punto interessante è che il problema non era necessariamente legato al livello educativo dei genitori, ma alla qualità del rapporto con i figli. Certe madri avevano un maggiore talento nello stimolare il bambino, in particolare nel linguaggio, spiegando le cose più che imponendole e sviluppando il ragionamento, piccoli gesti ma molto importanti, incoraggiando soprattutto la curiosità, la naturale tendenza del bambino a toccare, scoprire, esplorare. Noi abbiamo avuto uno straordinario personaggio, Maria Montessori, che già molti anni prima quelle cose le aveva capite, creando scuole che si sono diffuse in tutto il mondo. Recentemente si è scoperto che molti dei famosi innovatori dei nostri tempi, Jeff Bezos di Amazon, Sergey Brin e Larry Page di Google, Jimmy Wales di Wikipedia, Will Wright, pioniere dei videogame, Peter Drucker, guru del management, avevano frequentato da bambini le scuole Montessori. Solo una coincidenza? Naturalmente la sensibilità di ogni famiglia nei confronti dell'educazione è diversa. Per alcune rimane il perno centrale nella crescita dei figli, per altre molto meno. Questo dipende spesso anche dalle aspettative e dalla fiducia nelle chance che l'educazione può dare al futuro di un giovane. Ci sono casi limite, come quello della famiglia Kennedy. Sembra che la madre dei tre Kennedy, al mattino a colazione, leggesse e commentasse gli articoli di fondo del New York Times e del Washington Post. Forse non è proprio così, ma certamente quei tre giovani hanno cominciato a studiare da presidente a tavola, da ragazzi. In altre famiglie i discorsi sono molto diversi. L'impegno nello studio dei giovani e delle famiglie, malgrado tutto, non è scomparso ed è spesso premiato. Mi diceva un famoso consulente per la formazione di alti dirigenti d'azienda che i giovani che lavoravano nella sua organizzazione erano tutti laureati alla Bocconi con 110 e lode, non tanto per il voto in sé, ma per l'impegno che avevano messo per ottenerlo, a testimonianza di una prova di carattere e della ricerca del massimo risultato. Mi viene in mente in proposito un piccolo fatto che mi raccontava mio figlio Alberto quando studiava al liceo. Erano gli anni della contestazione e delle assemblee, ma all'epoca, avendo iniziato la scuola a Bruxelles, stava continuando i suoi studi in un liceo statale francese a Roma, una scuola molto severa e fuori dalle turbolenze del momento. Ebbene, mi raccontava che il suo compagno di banco, un ragazzo molto studioso, nel suo diario aveva scritto una frase come promemoria per se stesso: «Studia, cretino». Oggi questo ragazzo è al vertice di una delle più grandi banche italiane. Certo, sono casi particolari in cui tanti fattori concorrono, non soltanto lo studio, ma certamente chi si è davvero impegnato per riuscire ha più probabilità di altri di farcela. E questo vale a tutti i livelli, anche i più umili. Vorrei raccontarvi un altro piccolo episodio che mi ha molto colpito. Mi recavo in passato in una copisteria vicino agli studi della RAI per far battere i testi dei miei libri e parlavo spesso con la gentile signora che li dattilografava, anche perché era la mia prima lettrice. Questa copisteria si trovava in un viale con grandi platani e regolarmente uno spazzino veniva con il suo carretto a raccogliere le foglie e a ripulire la strada. Era ormai una figura familiare. Un giorno, mi disse la signora, lo spazzino si presentò con un plico, un testo da battere a macchina. Era la tesi di laurea di suo figlio. Vi assicuro che ancora oggi mi commuovo pensando a quest'uomo meraviglioso, che con chissà quali sacrifici era riuscito a realizzare il sogno di dare a suo figlio quella che riteneva la cosa più importante, l'educazione. Un sogno condiviso dal figlio con tanto impegno e forse molte privazioni. Una storia bellissima che non ho mai scordato. In fondo tutto dipende da quale importanza si vuole dare all'educazione. Conosco persone che, come formichine, hanno risparmiato su ogni spesa non essenziale e, pur disponendo di un buon reddito, non hanno mai comprato auto costose ma solo utilitarie, sfruttate fino allo stremo. Niente abiti o accessori griffati, vacanze fatte in pensioncine, eccetera. Ed ecco che magicamente, sull'altro piatto della bilancia, si sono ritrovati il frutto di questi continui risparmi, un montepremi per l'educazione. Da spendere per le migliori scuole, le migliori università, sfruttando magari i corsi estivi di certe università storiche di prestigio o aggregandosi a spedizioni scientifiche come volontari, che però si pagano viaggi e soggiorno. Considerando questa la vera ricchezza da lasciare ai propri figli, insieme ai valori e anche alla padronanza perfetta della lingua inglese. Cercate l'eccellenza. Quando mi capita di incontrare dei giovani in occasione di conferenze nelle scuole o nelle università, cerco di spiegare loro quanto sia essenziale non accontentarsi della routine, delle cose che si debbono fare perché sono collocate lungo il percorso. Puntate sulle vostre qualità. Cercate di portare avanti dei progetti con spirito di iniziativa e, se possibile, inseguite l'eccellenza. Questo vale per lo studio, ma vale poi soprattutto per la vita. Ci sono ragazzi che non sono brillanti a scuola, ma che hanno altri interessi e li coltivano. magari si appassionano, si informano, leggono, parlano con persone competenti, imparano a impostare un problema, a trovare soluzioni, a pianificare, magari anche a creare cose nuove. Quando si entra nel mondo del lavoro, sono queste qualità che contano. Qualunque imprenditore o manager preferisce avere collaboratori seri di cui si fida, a cui può delegare in quanto hanno dimostrato di saper portare avanti un incarico, un progetto o anche semplicemente di eseguire bene un compito, proprio perché è così che si sono abituati a operare. È così che è anche più probabile individuare un proprio piccolo o grande ascensore e comunque vivere in modo più vitale il proprio lavoro. Oggi la grande varietà dei lavori e delle opportunità aiuta a individuare meglio un proprio spazio. Purtroppo in tutto questo la scuola non è stata aiutata a ritagliarsi quel ruolo fondamentale che le spetta. Personalmente conosco tanti splendidi insegnanti che si impegnano a migliorare le cose anche senza quelle gratificazioni che dovrebbero premiare un lavoro così importante. Ma non è facile, sia perché la figura dell'insegnante ha perso l'autorevolezza di un tempo. In passato sarebbe stato inimmaginabile che un genitore contestasse un brutto voto schierandosi contro l'insegnante, a volte addirittura passando a vie di fatto. Sia perché negli anni c'è stata anche una perdita di fiducia nell'utilità dello studio per trovare un posto di lavoro o per fare carriera. Ma c'è di più. Quello che è grave è il poco interesse da parte della società e della cultura nell'affrontare il problema della scuola in modo deciso per cercare di risollevarne il livello. Quando si parla di scuola si parla soprattutto di precari, di concorsi, di aule fatiscenti, di scuola pubblica o privata, tutte questioni importanti, ma avete mai visto iniziative e dibattiti su come migliorare la qualità dell'apprendimento o su come migliorare l'impegno nello studio? I sorprendenti risultati di un concorso. La conseguenza è che nel silenzio quasi generale la qualità dell'apprendimento è precipitata. E l'onda lunga è arrivata a coinvolgere anche corsi di studi che sembravano salvarsi da questo scadimento. Molti sono rimasti colpiti, per esempio, da quanto è successo nel maggio 2022 al concorso nazionale per magistrati. Il 95% dei candidati sono stati considerati non idonei sulla base delle prove d'ammissione e si trattava di candidati laureati in giurisprudenza. Il risultato è stato che su 3.800 candidati non è stato possibile giungere all'assunzione di quei nuovi magistrati necessari per reintegrare gli organici. Ben 90 posti sono rimasti vacanti. Già nel 2008, in un altro maxi concorso per magistrati, era successa una cosa analoga. Solo la metà dei posti era stata coperta. Segnali di questo tipo arrivano anche da concorsi per altre professioni e sono un'ulteriore conferma del fatto che l'asticella negli studi si è molto abbassata. Non è così ovunque, per fortuna, ma certamente un sistema rilassato come il nostro non stimola a dare il meglio di sé e a impegnarsi per superare gli ostacoli. La nostra, del resto, è diventata una società di soli diritti e non di doveri. Le tigri asiatiche. Altrove le cose non vanno così. Anzi, lo studio e la severità negli studi è considerato un valore fondamentale sia per la crescita individuale sia per quella economica. Questo è vero soprattutto nei paesi asiatici, che hanno esteso la competizione non solo nella produzione di beni materiali, ma anche di conoscenze, puntando moltissimo sulla produttività scolastica, proprio come un fattore essenziale di sviluppo. Citavo prima i dati del rendimento scolastico all'età di 15 anni. Ebbene, uno dei rilevamenti più recenti dice che tra i 5 paesi con più alto punteggio nel mondo, 4 sono asiatici. Questo forte impegno educativo in Asia ha portato tra l'altro alla formazione di un gran numero di ingegneri e di scienziati che fertilizzano il sistema industriale, specialmente nei settori più avanzati. Sappiamo che da noi succede l'inverso. Le aziende si lamentano di non trovare tecnici, specialisti, ma anche ingegneri informatici, per utilizzare al meglio le nuove tecnologie digitali. Non so se sia una leggenda metropolitana, ma sembra che ci siano più avvocati in Italia che in Francia e in Germania messe insieme. La prorompente crescita della Cina, come pure delle altre tigri asiatiche, ha insomma alle spalle anche un sistema scolastico molto severo e selettivo. Vale la pena ricordare alcune caratteristiche di questo sistema. Anche se in apparenza la struttura della scuola cinese può apparire simile a quella italiana, materna, elementari, medie inferiori e superiori, università, in realtà si tratta di una specie di corsa a ostacoli molto competitiva, con esami temutissimi che vanno superati per poter accedere al livello superiore o all'università, come il famoso Gaokao, l'equivalente della nostra maturità, nel quale avviene una selezione rigorosa dei meritevoli di andare all'università. Nel 2019 solo il 40% degli studenti ha superato questo esame. Come è facile immaginare, la pressione sociale sui giovani cinesi è altissima e comincia addirittura dalle scuole elementari. Sin da piccoli gli studenti passano gran parte del tempo sui banchi di scuola. Inoltre, i genitori più ambiziosi iscrivono i propri figli ad attività extrascolastiche, come musica, sport e lezioni di approfondimento, per avere i numeri per entrare in un'ottima scuola o addirittura per vincere borse di studio per l'università. Fin dal 1978, con le riforme di Deng Xiaoping, la Cina ha riconosciuto nell'istruzione una leva importantissima per lo sviluppo economico. Allora l'analfabetismo sfiorava l'80%, oggi si è ridotto a meno del 2%. Una selezione implacabile esiste da tempo anche in Giappone, con regole quasi militaresche. Ricordo di aver filmato vari anni fa l'ingresso degli studenti in un liceo di Tokyo, una scena per noi davvero sorprendente. I ragazzi arrivavano disciplinati lungo un viale con alcuni compagni muniti di fascia al braccio che fungevano da servizio d'ordine. Un paio di professori controllavano l'ingresso, riveriti da continui inchini. Ma al di là della forma c'è la sostanza. Il sistema infatti prevede che non si possa accedere a studi superiori in scuole di qualità se non si ottengono buoni voti. La selezione è micidiale e comincia già dalle scuole medie. Succede così che i figli di ingegneri, economisti, avvocati deludano le forti aspettative paterne e questo crea tensioni, drammi e persino suicidi. I centri di eccellenza. L'accesso all'università oggi di un gran numero di studenti risponde non soltanto alle esigenze di un paese moderno, ma è stato, specialmente in Italia, anche un momento di crescita sociale che ha permesso a tanti giovani l'accesso a un'istruzione superiore che in passato era riservata solo alle classi più fortunate. Ma l'università è anche un luogo dove si debbono formare le eccellenze di cui una società ha bisogno, in ogni campo. C'è in proposito una battuta significativa dell'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che ha detto: «L'America è un grande paese non perché ha un grande esercito, ma perché ha grandi università». Ed effettivamente buona parte del software di quel paese esce proprio dai centri di eccellenza, non solo per quanto riguarda la ricerca scientifica o l'innovazione tecnologica, ma per molti altri tipi di attività intellettuale. Ciò è vero del resto in ogni paese. In queste università non si può andare fuori corso, bisogna dare tutti gli esami nei tempi stabiliti e superare una certa media nei voti. Mi raccontava un giovane studente italiano, accettato per i suoi meriti in una prestigiosa università inglese, che durante la prima lezione il professore aveva annunciato: «L'anno prossimo molti di voi non saranno più qui». Ed effettivamente, se i risultati non sono all'altezza, lo studente, che pure ha subito una severa selezione iniziale, viene cortesemente invitato a cambiare università. Il numero di questi atenei sta crescendo perché la qualità, la competenza, il software sono diventati oggi beni preziosi. Si tratta di istituti non soltanto molto selettivi, ma anche molto cari, sia perché il rapporto numerico è rovesciato, meno studenti e più professori ben retribuiti, sia per tutte le attrezzature messe a disposizione oltre a vitto e alloggio. Negli Stati Uniti queste rette sono particolarmente elevate e possono arrivare a 70-80 mila dollari l'anno. Esiste tuttavia un sistema per riequilibrare in parte le disuguaglianze, tante borse di studio o prestiti per gli studenti che non riuscirebbero a pagare cifre del genere. Per esempio, al famoso MIT, Massachusetts Institute of Technology, la retta annuale arriva ai 77 mila dollari, ma il 59% degli studenti, nel 2020, ha ricevuto borse di studio calcolate in base al reddito. In Europa, nei centri di eccellenza, le rette non sono solitamente così alte. In Italia, l'università più cara, privata, è la Bocconi di Milano, con una retta di 13.000 euro l'anno, ma senza vitto e alloggio. Ciò significa comunque oltre 50.000 euro per una laurea, se non si hanno contributi. Nel nostro paese, purtroppo, non è così forte la tradizione di sostegno allo studio per i più meritevoli, con borse o donazioni alle università. Gli Stati Uniti sono pieni di cattedre intitolate a grandi donatori. Qui da noi invece chi ha molti soldi preferisce spesso sostenere le squadre di calcio o finanziare altre operazioni che garantiscano maggiore visibilità. Forse degli incentivi fiscali veramente attraenti qualche miglioramento potrebbero portarlo? Paradossalmente, malgrado tutti gli ostacoli e le difficoltà, i nostri ricercatori a livello individuale svettano per i loro meriti anche in campo internazionale. Addirittura i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea per finanziare nuove ricerche e assegnati sulla base della qualità vanno in notevole misura a nostri scienziati. Ma spesso si tratta di scienziati italiani che lavorano in istituti stranieri. Tutto questo avviene anche perché in Italia il finanziamento per la ricerca non è considerato strategico. È una spesa, non un investimento. Le priorità sono altre. Le pressioni da ogni parte e le urgenze spingono verso direzioni differenti. Eppure è dimostrato che spendere in ricerca, innovazione, produttività è il miglior investimento, quello che rende maggiormente in prospettiva.